fra un bicchiere e l'altro si comincerà a giocare. Ehi, quanti di voi sono come noi? Al 100%. Fuori da